Watergate verso l'autodistruzione. Glorioso di massa esplosione di sole, il nostro nome fragoroso, né l'apocalisse il cognome. Sono generi diversi, versi diversi, dispersi, scomparsi, dietro nuvole di ghiaccio, davanti a flevoli emozioni in taccio, rotte pure nebulosa del tuo gesto, fuor di spaccio, fratello coltello, la lama fardello, testa rotta, dottore di una farfalla morta, placida emozione mia timida insicurezza, logica, chiamata senza ragione, mortale iniezione, da insetto al livello esercitazione. Da insetto al livello esercitazione. Follow me, follow mistero scoppio, rado cado, cado vero, ero coca fumo nero. Volo mistero scopro, rado cado vero, ero coca fumo nero, divento la pillola di martica raccolta nel sentiero, sentiero di vento in lame di impurità morto nel vero, divento la pillola di martica raccolto nel sentiero, sentiero di vento in lame di impurità morto nel vero. Niente catarsi, errori sparsi, ricordi falsi, arsi, dal pugnalarsi, dal pugnalarsi, immersi, rincorsi fino alla morte, anche se il diavolo in sorte getta dolore al taglio d'anima ero. Un altro rito del tè ci bevo, il nebbio, mattina e rassegnazione seri, il foglio di chiosco, il tuo bianco rimorso tolto dal petrolio, nelle mine noi soldati di pagine di luce, a firmare col più bel nome cicatrice, riverbero di sogni, fragorosi il ricordo di noi, no, ossì il tremulo dei corni, adorni, cinti, il capo di scleri, veglieri, neri, sogni di ieri. Oggi alba, risorgi, donna, ai guerrieri noi, risvegli, uragani fieri. No, ossì il tremolio dei corni, adorni, cinti, il capo di scleri, veglieri, neri, sogni di ieri. Oggi alba risorgi, donna e guerrieri, noi risvegli, uragani fieri. Oggi alba risorgi, donna e guerrieri, noi risvegli, uragani fieri. Sono generi diversi, versi diversi, dispersi, scomparsi, dietro nuvole di ghiaccio, davanti a flevoli emozioni taccio, notte pure nebulosa del tuo gesto, fuor di spaccio, fratello, coltello, lama, fardello, testa rotta, dottore di una farfalla morta, placida emozione mia, timide sicurezza lavica, fiammata, senza ragione, immortale iniezione, da insetto a libellula, esercitazione, Stargate verso l'autodistruzione, glorioso di massa esplosione di sole, il nostro nome fragoroso, né l'apocalisse il cognome, Stargate, Stargate.